Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, è particolarmente ricco l'appuntamento di oggi con il calcio internazionale, con alcune ricadute tra l'altro sul calcio di casa nostra, e direi due in particolare: il momento delle tre squadre inglesi che tra 40 giorni se la vedranno in coppa con Inter, Juve e Roma rispettivamente. E poi il boom di un giovane francese che da noi non aveva lasciato tracce particolari e che a Bordeaux invece sta facendo davvero grandi cose, al punto che l'Equipe, insomma, un quotidiano sportivo, quello francese, che non è abituato magari a esagerare come qualcuno dalle nostre parti, ha appena pubblicato una copertina molto suggestiva in cui in primo piano c'è questo giocatore, per l'appunto Gourcuff, e sullo sfondo c'è l'immagine di Zinedine Zidane, niente meno. Bentornato Fabio Tavelli. Grazie Gigi, un saluto a tutti, buongiorno. Oh, io partirei proprio dalla cronaca, partirei da Gourcuff, poi abbiamo, ripeto, molti altri argomenti. Da quel gol gioiello di sabato, ma anche da una grande stagione che il francese sta giocando, forse con una piccola eccezione fino a un certo punto, nel senso che ancora una volta quando Gourcuff ha incontrato il calcio italiano, cioè la Roma, si è visto che questo giocatore è lievitato da quando in Francia è tornato, ma insomma non ha fatto le cose che si dice stia facendo il suo campionato, forse. Beh, questo significa due cose. Beh, insomma, intanto diciamo che l'investitura che l'Equipe gli fa in questa mattina, in questi giorni, ma anche direi in queste settimane, non è da oggi che i giornali francesi hanno scoperto, e forse loro stessi sentono la necessità di doversi innamorare di qualcuno. Sì, è giusto. C'è probabilmente da parte della stampa e anche la sollecitazione da parte dei tifosi a trovare nuovi stimoli, nuovi spunti in un campionato che il Lione ha cannibalizzato per molti anni. Adesso concorrono due cose: intanto che il campionato è diventato equilibrato, un po' per colpa del Lione e un po' per merito del Bordeaux, e poi perché effettivamente Gourcuff sta giocando molto bene, con qualche eccezione, nel senso, l'hai detto giustamente tu, in Europa le prestazioni di Gourcuff non sono state in linea con quelle del campionato francese, e qui allora risulta abbastanza evidente che trattasi di un campionato nel quale è più facile esibirsi. È anche vero che Gourcuff aveva bisogno di giocare, perché al Milan lo ha fatto pochissimo. È evidente che Gourcuff è arrivato in un momento nel quale non era ancora pronto per reggere una pressione così forte. Un conto è essere Pato e un conto è essere Gourcuff, e comunque insomma i tempi di maturazione delle persone sono diversi e sono evidentemente soggettivi. Detto questo, il ragazzo è forte, il ragazzo è un ottimo giocatore, ha un papà che fa l'allenatore, quindi il calcio ce l'ha nel sangue, e il Milan si trova ad avere la possibilità di decidere che cosa fare di questo ragazzo, che andato in prestito al Bordeaux come a voler prepararne la dipartita tecnica, e invece adesso il Milan poi comincerà a riflettere se non sia il caso di tornare a investire su questo Gourcuff, fermo restando che insomma tanto il Milan ha problemi in altri reparti del campo. Sì. E poi Gourcuff ha bisogno di una legittimazione internazionale, magari anche con la nazionale, che per il momento lui non ha ancora. Oh, è interessante chiarire la formula con cui il Milan ha ceduto Gourcuff al Bordeaux. La formula è quella del prestito, lo ha rispiegato ancora stamattina Gagliani, ma poiché in Francia il prestito non esiste, il prestito gratuito, è stata fissata la clausola di riscatto obbligatoria per il Bordeaux per riprenderlo. Quindi il Bordeaux se lo vuol tenere lo tiene, deve versare 15 milioni di euro, che per il Bordeaux sono tantissimi, ma che potrebbero essergli, come dire, in parte forniti da altre società, non tanto per un'acquisizione immediata, ma magari per un controllo in prospettiva, ed è quello contro cui il Milan cercherà di vigilare, no? In maniera da non ritrovarsi Gourcuff, perché finché a Bordeaux non c'era lui ma un conto, ma dovesse ritrovarselo da qualche altra parte magari un po' più concorrenziale. Sì, resta un buon affare, perché comunque questa è una cifra decisamente superiore a quella che il Milan ha speso per acquistarlo. Certo. Quindi in ogni caso il segno sarà più nel bilancio del Milan. Sì, sì, in ogni caso il Milan fa certamente un affare. Poi bisogna vedere, per l'appunto, se va avanti a questa maniera l'affare vero sarebbe riprenderselo, e se sì, no si consolerà comunque con una bella una bella plusvalenza sì. vera, ma di quelle vere, non di quelle vere, questa è vera, sì. Ecco, non di quelle sì. che un tempo. Adesso farei una, prima di arrivare poi all'Inghilterra con Karma, farei una piccola incursione nella storia. Allora, nella storia di oggi c'è internazionale, ripeto, c'è una notizia triste che arriva dal Brasile, perché è morto Friasa, che Friasa sì. era il centravanti del Brasile del 50, quello che in 20 minuti vide svanire una gloria che sarebbe stata eterna. Vuoi ricostruire tu il perché? Lo faccio io, Fabio? Beh, io ricordo che lui è morto oggi ed è certamente una notizia dolorosa. In molti morirono proprio quel pomeriggio, perché sì. perché quello è un lutto nazionale del Brasile, che perse un campionato del mondo in casa davanti al suo pubblico in una finale che poi non era nemmeno una finale, perché al Brasile bastava il pareggio, ed era uno di quei risultati scritti nei quali poi insomma il dio del calcio ci mette lo zampino, perché la vittoria dell'Uruguay, credo, non so Gigi, tu hai certamente più memoria di me, ma è uno dei tre eventi più sorprendenti, credo, della storia del calcio. Sì, certo, non c'erano i bookmakers nel 50, no, ma ci fossero stati, non so se sarebbe stata quotata la vittoria dell'Uruguay, e ammesso che qualche pazzo l'avesse quotata e l'avesse giocata, sì. sarebbe stato ricco per generazioni, perché tu hai ricordato giustamente, non solo con quella formula del 50 mondiale al Brasile bastava pareggiare quella partita con l'Uruguay, ma Friasa per l'appunto segnò il gol dell'1-0 per il Brasile. Ed era già l'inizio del secondo tempo, sicché si trattava di difendere quel gol per il tempo che mancava, eventualmente subendo anche il semplice pareggio, sì. E sarebbe stato molto. Invece prima segnò Schiaffino e poi segnò Ghigia. E lì ricordano molti come poi il portiere Barbosa, il portiere sì. del Brasile, fu poi ghettizzato, messo all'indice. Addirittura si narra che nell'82 volle Barbosa andare a visitare la nazionale brasiliana in Spagna, non fu fatto entrare nel ritiro. Cosa che peraltro poi non impedì alla nazionale di Berzo di batterli, e lo stesso Ghigia credo abbia raccontato un bel po' di anni fa, o forse lo fece anche Schiaffino, che ogni qualvolta uno o l'altro insomma dovettero varcare i confini brasiliani, ogni volta che hanno dovuto esporre e mostrare il loro passaporto, l'hostess piuttosto che la persona al check-in, dopo aver letto il cognome lo guardava in maniera molto strana, come dire, ma sei proprio tu quello? Perché effettivamente fu un lutto terribile per il Brasile. Certo, e questa è una storia antica. Friasa aveva 84 anni, è morto nei giorni scorsi a San Paolo, mi pare, non? Sì, a San Paolo del Brasile. Una storia invece, storia già, ma più recente e tuttora in corso, e di grande suggestione comunque, è quella che riguarda Raul, perché mi pare sia arrivato a fare una cifra tonda. 500 nella Liga. Con la camisetta blanca del Real, Sta cominciando ad avviarsi verso la leggenda questo giocatore. Guarda, lui sta per battere Sanchis come recordman di tutti i tempi, come presenze con la camisetta blanca, se consideriamo tutte le presenze nelle varie coppe e quant'altro. Domenica ha fatto 500 senza mai un'espulsione, e credo che sia nella Liga, 500 partite nella Liga senza mai un'espulsione, tutte 500. Non è facile, sì, perché comunque insomma anche un doppio cartone. Certo, Raul non è uno che si toglie la maglietta, quindi già, no. Già il giallo sulla maglietta non lo prende. In ogni caso, Raul ha stabilito questo traguardo, ha tagliato questo traguardo, sta probabilmente per avvicinare e superare anche la saeta rubia di Stefano per quanto riguarda i gol, e quindi diventerà ragionevolmente tra quest'anno e il prossimo il più grande madridista della storia, naturalmente parlo di numeri. La storia di Raul è bella e singolare, perché lui in realtà nasce colchonero, cioè nasce nella cantera dell'Atletico Madrid, certo. E fu soltanto una necessità di tagli economici dell'allora presidentissimo Gil. Che disse, sta cantera ci costa un po' troppo, qualcuno lo lasciamo andare, e magliene incolga, perché lui lasciò andare Raul, che si accasò dall'altra parte, nella Ciudad Deportiva del Real Madrid, e divenne Raul. Ma io non lo ricordavo, ho visto dei filmati in questi giorni, ma l'esordio di Raul fu tragicomico all'inizio, perché Raul esordì in una partita una quindicina d'anni fa contro il Real Saragozza, Lui fornì un assist a Ivan Zamorano per un gol di testa, ma soprattutto si divorò tre gol pazzeschi, tra l'altro tutti e tre sul piede destro, uno dei quali proprio con il portiere per terra e la porta completamente spalancata. E sembrava uno sciagurato Raul in quella partita. Poi Raul nella stessa stagione divenne un eroe perché segnò un gol all'Atletico Madrid e si procurò un rigore, il rigore del 3-2 che poi Michel segnò e quello il Real vinse il derby. Da lì in poi è nata la leggenda di un giocatore che insomma ha attraversato due generazioni, che non ha avuto fortuna con la nazionale, ha vinto abbastanza evidentemente sia a livello europeo che a livello spagnolo, e che è il capitano honoris causa del Real Madrid, e che domenica per la standing ovation ha ceduto la fascia a Iker Casillas, che è titolare di un'altra storia bella, perché in questi giorni lui ha compiuto 18 anni di militanza nel Real Madrid. Certo. Casillas gioca da 18 anni, no, non sempre in prima squadra, evidentemente stiamo parlando delle giovanili, ma insomma se c'è una bandiera è Raul, e appena Raul ammainerà la bandiera c'è già subito quella di Iker Casillas. Sì, senza fretta, Fabio, poi perché non c'è perché, dubbio. Perché Raul è un giocatore che ha passato da non molto i 30 anni. Sì, sì. A parte che anche i suoi numeri, se parliamo di gol, sono impressionanti, perché ha segnato 212 gol con la maglia del Real e soltanto 9 su rigore. Questo è importante, sì, perché sì, insomma, in genere quei cannonieri hanno una media di quasi la metà dei gol su rigore, no? Accade anche in casa nostra, che per carità è un grande merito saper trasformare dal dischetto, ma insomma è un po' più facile. È un po' più facile. Sì. 64 gol nelle coppe europee ed è il massimo goleador in Europa, e adesso ha nel mirino niente meno che Alfredo Di Stefano, sì, no? Che vuol dire il massimo della leggenda spagnola, ma forse direi anche, per quel che mi riguarda, direi anche di tutti i tempi. Quindi grandi suggestioni madrilene in campo, è in la cancia, fuori in società sono arrivate proprio stamane notizie abbastanza disastrose invece che riguardano lo stesso Real. Sì, riguardano Calderon, riguardano il presidente. La notizia arriva da Marca, che questa mattina ha fatto un grande lavoro dal punto di vista giornalistico, lo fanno spesso onestamente, però insomma, questa mattina hanno messo davvero con le spalle al muro Calderon, perché nella prima settimana di dicembre a Madrid il Real, che ha una formula societaria diversa rispetto alle società italiane, perché c'è un azionariato diffuso e il presidente non viene eletto in quanto decide di essere presidente, ma in quanto c'è un'elezione che lo mette appunto sulla poltrona, sulla massima poltrona. Calderon, elezioni che ci saranno nel 2010, quindi l'anno prossimo. Calderon doveva passare da un varco abbastanza stretto, che era l'approvazione del bilancio, e in molti gli contestavano l'attuale gestione, gli contestavano il fatto di aver elargito un po' troppi soldi all'agente di Van Nistelrooy e di aver visto lievitare i prezzi degli acquisti di Gago e di Higuain a prezzi fuori mercato. Questo e altri dettagli di minore importanza. Insomma, Calderon rischiava di non veder approvato il bilancio. Ce l'ha fatta, quel giorno il bilancio fu approvato abbastanza di stretta misura. Oggi Marca scopre, quantomeno lo anticipa, lo annuncia, e poi domani annuncia ulteriori dettagli su questa cosa, che i votanti di questa assemblea praticamente Calderon avrebbe fatto votare a suo favore delle persone che non erano titolari non avevano la titolarità del voto, cioè erano degli imbucati, degli amici di Calderon che erano lì pronti ad alzare la paletta. La cosa clamorosa, secondo me, è che una società come il Real Madrid, all'interno di un'assemblea che è un'assemblea di soci, quindi alla quale non possono entrare tutti, fa votare con un metodo facilissimo, che è quello della paletta bianca o della paletta rossa, quindi paletta bianca per approvare, paletta rossa per non approvare, e il conto viene fatto dalle hostess che girano per la sala a occhio. Quindi diciamo che la validità, tutto sommato, comunque, a parte i plebisciti, insomma suffragio totale, mi sembra particolarmente difficile, soprattutto per una votazione nella quale c'è stato un testa a testa tra favorevoli e contrari. A quel punto è evidente che ci sono state delle irregolarità, o quantomeno è molto sospetto il fatto che Marca abbia portato queste prove, e prove peraltro anche documentate, perché oggi Marca esce con 4 pagine di documenti e di testimonianze. Sì, è una storia che è un po' difficile inventarsi. Sì, esatto. E una votazione con truppe cammellate al seguito da parte dell'attuale presidente incidente, effettivamente è una cosetta vagamente, sì, vagamente imbarazzante. Oh, gli argomenti sono ancora parecchi, adesso abbiamo un intervallo, vi ricordo che 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta. L'argomento del giorno, una volta che avremo esaurito questi di stampo internazionale, potrebbe essere tra l'internazionale e il nazionale, e cioè mi piacerebbe sentire da qualcuno di voi che abbia assistito, ma in diretta e per intero, all'esordio di domenica di Beckham, che cosa ne pensa, e cioè che pagella avrebbe dato al giocatore, e se è d'accordo con i giudizi che ha ascoltato, sia vocali che quelli poi scritti. Ce ne sarebbero altre che riguardano la Spagna prima di trasferirsi in Inghilterra, però è anche vero che, e mi rivolgo al ministro degli esteri Fabio Tavelli, insomma una prudenza decisiva di Messi comincia a non far più notizia, mi pare. No, non fa più notizia, però devo dirti, avendo visto la partita, che il Barcellona nel primo tempo ha avuto bisogno di una prudenza di Eto'o, ma anche sul primo gol Messi aveva fatto una serpentina mica da ridere. Poi è andata misteriosamente sotto il Barcellona, e però è talmente grande il Barcellona rispetto all'Osasuna, rispetto alla media delle altre formazioni, che insomma in 10 minuti il risultato lo ha ribaltato di nuovo. Quindi c'è una squadra che ha anche del carattere oltre che della grande tecnica. Il gol di Xavi prima, il gol di Messi, che peraltro è molto simile a quello segnato da Robben contro il Villarreal 2 settimane fa, cioè questa conversione da destra verso sinistra, sì, che ormai è diventata abituale, non può più stupire. Robben fa un dribbling in più, ma insomma in ogni caso stiamo parlando di giocate di grandi giocatori, di fenomeni nel caso di Leo Messi. Posso dare, Gigi, un piccolissimo e rapido contributo alla discussione che poi aprirai su Beckham? Sì, ed è questa: in Italia 6 sulla Gazzetta, 6 sul Corriere dello Sport, 6,5 su Tutto Sport, voto Beckham. Per quanto riguarda invece l'estero, buoni voti, buoni giudizi in Spagna per l'esordio di Beckham, quantomeno abbastanza positivi, molto, molto giù invece sui tabloid inglesi lo hanno abbastanza massacrato, al punto che ce n'è uno, il Daily Star, che ha scritto: ma perché non ti sei fatto prendere dal Bologna, dal Chievo o dal Cagliari? Sì, perché bisogna correre, la risposta sarebbe quella, probabilmente. E un altro che ha scritto: la migliore azione di Beckham, saltare sulla schiena di Pato per farsi fotografare e mandare in giro la foto, che mi sembra abbastanza, voglio dire, colorita, puntuta, ma neanche sbagliatissima, nel senso che Beckham ha comunque il senso della notizia, sa sempre dove sono piazzati i fotografi, certo. E insomma quel balzo sulla schiena di Pato, che è stato il vero fenomeno di serata, è poi finito guarda caso sulla prima pagina di moltissimi giornali. Per pura combinazione. Prima andiamo in Inghilterra, ma mi spiace molto dover segnalare che un giocatore molto conosciuto in Italia come Darko Kovacevic, che ha militato per anni nella Juventus, nella Lazio, e poi è stata una colonna nazionale serba, e che dallo scorso anno gioca nell'Olympiacos, è stato bloccato improvvisamente dai medici del suo club, carriera finita per una disfunzione cardiaca seria dovuta all'ipertensione arteriosa. Si trova già in una clinica spagnola a San Sebastián per un intervento chirurgico. Insomma, a 35 anni, per carità, la carriera era agli sgoccioli, ma è davvero un brutto modo per chiuderla, quindi auguri a questo vecchio combattente Kovacevic. In Inghilterra mi pare che le tre squadre che è ovvio che staranno nel mirino per 40 giorni più le 2 settimane delle disfide stiano vivendo momenti molto ma molto diversi tra loro. Sì, molto, perché il Manchester United il segno è decisamente più, poi lo vedremo anche domani sera contro il Wigan. Il Manchester adesso ha 5 punti di ritardo dal Liverpool, ma 2 partite da recuperare, e una comincia a recuperarla domani in casa contro il Wigan. C'è Cristiano Ronaldo, che ieri ha ricevuto anche il FIFA World Player, è certamente una squadra in ripresa notevole, e questo fa pensare che la partenza, non dico a fari spenti, ma insomma tutto sommato a regimi di motore abbastanza bassi, sia stata voluta da Alex Ferguson per arrivare pronti al Mondiale per club, che comunque il Manchester, cioè ormai il Mondiale per club e le squadre europee lo vincono quasi in scioltezza, insomma per arrivare pronta poi alla volata lunga che parte da gennaio in poi. È stato decisamente imbarazzante e impietoso il confronto con il Chelsea. Oggi da Londra arrivano notizie di un Abramovic molto irritato con Scolari, di un Abramovic che si dice misurerà il futuro di Scolari nelle prossime 8 settimane. prima hai citato i bookmakers già quotano Roberto Mancini come nuovo allenatore del Chelsea addirittura in questa stagione, e qualcuno sostiene che se il Chelsea dovesse andare fuori in FA Cup dal Southend domani sera, il Chelsea sarebbe avrebbe già deciso di cambiare Scolari. È una squadra che ha avuto un problema ambientale a Manchester, perché non so se gli ascoltatori lo sanno, ma era nello stesso albergo con Maradona e i giocatori del Chelsea, e a un certo punto è suonato l'allarme antincendio la notte prima della partita. Qualcuno sostiene che è stato Maradona con l'accensione di un suo sigaro in camera a farlo accendere, a farlo partire, e questo ha fatto sì che l'albergo fosse evacuato per 40 minuti con i giocatori buttati fuori dal letto e richiamati di corsa nei corridoi e poi nel cortile a una temperatura non altissima, e questo certamente non ha aiutato il riposo dei giocatori del Chelsea il giorno prima della partita. Non so se sia stato questo, non credo, però fondamentalmente il Chelsea sta facendo una fatica terribile, non riesce a trovare continuità, era riuscita nella prima parte della stagione a vincere quasi sempre fuori casa, adesso è una squadra in grave imbarazzo, evidentemente insomma l'assenza lunghissima di Essien a questo punto si fa sentire, e anche i rapporti tra Scolari e il gruppo non sembrano più idilliaci, al punto che Anelka, che invece ha avuto da Scolari moltissimo spazio in questo campionato, peraltro meritato perché ha segnato un sacco di gol, si è molto arrabbiato per la gestione del suo rapporto con Drogba e della presenza insieme a Drogba in campo l'altra sera. Manchester che va benissimo, Arsenal che come sempre è molto bello, come sempre è molto arioso, come sempre molto divertente da vedere, però gli interpreti non sembrano più gli stessi, l'assenza di Fabregas è pesantissima e lo stesso Adebayor sta vivendo una stagione nella quale la porta la vede un po' meno. E è emblematica un'azione della partita di domenica contro il Bolton, di sabato contro il Bolton, nella quale Adebayor arriva davanti al portiere, tutto sommato sembra quasi stia aspettando che i fotografi scattino il click e si fa parare la conclusione, segno di una squadra che spesso cerca in maniera ossessiva la bella giocata, il bel dialogo, la musicalità dell'azione, e invece poi per vincere ha bisogno di uno ruvido come Bentner che viene dalla panchina e ti butta dentro una sassata a due minuti dalla fine. Dicevi del sigaro di Maradona della scorsa settimana, il sigaro di Maradona stasera dovrebbe essere a San Siro, sì. Per Inter-Genoa, non perché la partita di Coppa Italia, per carità, interessante, non epocale certamente, ma è l'occasione per Maradona per incontrare quasi certamente Milito, perché Milito non giocherà nel Genoa, sta ancora recuperando, non è ancora a posto, ma probabilmente è l'occasione per un incontro tra i due, fermo restando che Maradona vedrà certamente anche Zanetti, Burdisso, Cambiasso, Crespo, Cruz, insomma, cioè tutta la colonia argentina dell'Inter, ma è ovvio che avendo dato un'occhiata e essendosi fatto raccontare di come sta andando Milito a Genoa quest'anno, due parole col principe potrebbero essere una buona idea. Sì, una buona idea per Maradona, che credo stia a pranzo con Moratti in queste ore, e che invece domenica andrà all'Olimpico a vedere la Lazio e a vedere Zarate, che insomma è un altro giocatore che sta diventando di interesse per la nazionale. Primi messaggi, questi scritti, poi ascolterò i vostri interventi in diretti su Beckham, insomma, io selezionerei finora il più divertente, che è quello firmato Guido Lavarese, dice: ma quando fanno rivedere l'esordio di Beckham a velocità normale? Questa insomma ci può stare. Fabio, varie ed eventuali? Guarda, la varia ed eventuale è l'annullamento del gol di Ronaldo di domenica. È curioso che il Manchester United abbia segnato sulla stessa azione nel... rapido riassunto, 44esimo minuto, calcio d'angolo per il Manchester United, lo va a battere Rooney, c'è il cross di Giggs, colpo di testa di Ronaldo, gol annullato. Perché? Perché secondo il guardaline la battuta del calcio d'angolo è stata irregolare. Calcio d'angolo battuto regolarmente, gol di Milic, questo è, come dire, insomma, il gol lo dovevate prendere. Era sia una varia che un eventuale, questa esattamente. Però la cosa vera è che il gol di Ronaldo era valido, perché Rooney ha fatto una furbata, è andato verso il guardaline, un po' così alla chetichella, passami il termine, ha messo la palla nella mezzaluna del calcio d'angolo e con la suola del piede ha praticamente fatto uscire la palla di mezzo metro, anche meno forse, dalla lunetta e di fatto, visto che la palla era ferma, il corner è stato battuto regolarmente. Rooney è andato via facendo finta di niente, è arrivato Giggs che ha sfruttato il fatto che quelli del Chelsea pensavano anche che fosse ancora da battere, esatto. invece era stato battuto. Giggs fa quattro passi in avanti, pennella dentro, Ronaldo colpisce di testa e cioè il gol è buono. Certo, la palla ha fatto più di mezzo giro. No, quindi poco da dire. Era una formula olimpico dello scorso anno, no? Con i corner della Roma, quelli che hanno fatto arrabbiare Zamparini, che insomma, è uno che non si arrabbia mai, ma che no, volta lì, ma ce ne vuole per far arrabbiare Zamparini. Grazie Fabio Tavelli. A voi, ciao a tutti. C'è mi piacerebbe mandare in onda un ascoltatore prima dell'intervallo centrale, cioè quello dei mercati di borsa. Massimo da Padova, buongiorno. Sì, Gigi, buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Sì. Allora, ho visto Beckham domenica sera e avevo visto prima Manchester-Chelsea. Abbiamo parlato di grande partita Roma-Milan, beh, allora chissà di calcio, e ha visto Manchester-Chelsea, si rende conto che giochiamo a due velocità diverse, ed è tutto dire. Per quanto riguarda, io volevo farle una domanda velocemente, sì. Il discorso Trezeguet ritorno e Amauri-Juve. È il momento forse che la storia d'amore tra Trezeguet e la Juve finisca con questo attaccante, perché con Amauri secondo me la Juve gioca in modo completamente diverso e molto, molto migliore di prima. L'opinione è che dipenderà dallo spazio che Trezeguet avrà. Certo che avendo davanti Amauri e finché Del Piero va su questi livelli di rendimento, Trezeguet deve capirlo per primo che gli spazi non saranno più, le garanzie non saranno più quelle di prima. Bisogna vedere di che cosa si accontenta, di quanto si accontenta. Questo mi sembra il dubbio. Premesso che Beckham, scrive Max da Perugia, ha svariato rispetto alla sua posizione, come metro di valutazione prenderei il fatto che il suo dirimpettaio Rise ha giocato finalmente la miglior partita dell'anno, e mi sembra questo tutto dire. Vabbè, insomma, poi ci sarà anche qualcuno a cui Beckham è piaciuto, lo scopriremo nella seconda parte della trasmissione. Torniamo in onda e c'è spazio adesso per qualche vostro intervento. Vi dicevo di Beckham, ma perché era soprattutto una curiosità anche personale, se vogliamo, però non è detto che questo debba essere un argomento monotematico o monomaniaco, anche per non far arrabbiare Ugo che scrive: state resentendo il ridicolo con tutta questa ironia su Beckham, ma che cos'è che vi dà così tanto fastidio? Assolutamente nessun fastidio, la curiosità da parte mia di capire, in un'epoca di marketing in cui ormai anche chi di calcio ne mastica, e non sono tantissimi a parer mio, è talmente bombardato dal marketing da non avere più una vera, secondo me, autonomia di giudizio, ma da essere indotto comunque in una certa direzione. È un piccolo test, una curiosità. Mario da Ancona, buongiorno. Sì, buongiorno. Io relativamente a Beckham, all'argomento Beckham, credo che sia importante sottolineare il fatto che il Milan ha giocato soprattutto il secondo tempo cercando di tenere il possesso palla, e che forse era l'unico modo per mascherare quei limiti atletici del centrocampo e i limiti anche della difesa, finché la Roma ha avuto, diciamo, la forza di tenere il Milan nella sua metà campo, ha giocato una grande partita, e forse l'1-0 il primo tempo era decisamente stretto. Poi dopo Pato si è inventato quella doppietta, soprattutto il secondo gol, secondo me uno dei più bei gol che io mi ricordi negli ultimi 2-3 anni, quindi credo che alla fine per la prudenza di Pato il pareggio è meritato, ma è chiaro che chi mette in difficoltà il Milan con il pressing, chiunque sia, può essere la Roma, il Bologna, la Juventus o un'altra squadra, evidenzia questo limite atletico. Poi Beckham ha giocato 90 minuti, è uno che era da mesi che non giocava, che ha giocato tutta la partita, è evidente che i ritmi sono stati, come dire, in qualche maniera, non dico drogati, ma comunque tenuti ai minimi, al minimo possibile. Questa pressione. Su Trezeguet volevo dire questo: sì. Uno che ha fatto 160 gol nella Juventus, che ha vinto diversi campionati, che è un giocatore, come dire, per quella maglia, per quella squadra, storico, io credo che prima di metterlo in cantina anche Ranieri ci penserà due volte. È chiaro che gli ci vorrà del tempo per recuperare, perché l'infortunio è grave, ma è un grandissimo campione, uno che in area se c'ha una palla una non è c'è difficile dubbio. Che sbaglia. Non c'è dubbio, infatti è una risorsa in più per la Juventus in questi mesi decisivi, certamente non è un problema in più, è una risorsa in più, può diventare un problema se non accettasse il fatto che adesso, durante questa sua lunga assenza, è stato, come dire, ben rappresentato davanti, sia dal punto di vista realizzativo, che era la cosa su cui forse potevano esserci più dubbi, sia anche meglio di lui, direi, dal punto di vista della personalità senza palla, cioè nel saper far reparto, cosa su cui Trezeguet invece è un po', insomma, preferisco a Mauri, anzi a Mauri da quel punto di vista lì. Carlo, provincia di Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, Granzini, ai suoi ospiti, a tutti quanti. Sì. Beckham, io sono un milanista dei primi ore, ricordo il Milan di Farina, quindi figuriamoci se mi scandalizzo le prestazioni di questo campione, ma il problema è proprio che, insomma, una partita come quella fatta da Beckham è una partita di un normale fluidificante di destra che nel campionato italiano, cioè, la fanno tutti, voglio dire, non c'è niente di cui rallegrarsi, considerato che viene considerato appunto un grande campione. E comunque, se mi è permesso, io per motivi di lavoro ero a Roma, sono andato a vedere la partita e veramente mi rendo conto che Ancelotti è un santo, perché io ricordo la diatriba tra la società e Sacchi quando la società voleva imporre Borghi, l'argentino famoso dell'Argentinos Junior, e Sacchi ha risposto: no ragazzi, a questa squadra serve Rijkaard, datemi Rijkaard. Io credo che non ne veniamo fuori se Ancelotti non inizi anche a litigare con la società, perché anarchia completa. A me vedere Pato che si deve fare 40 metri di campo per tornare indietro perché su quella fascia c'è Ronaldinho che lo guarda passare, e si annoda la sciarpa per non sentire corrente, no? Perché quando sei fermo, gli spostamenti d'aria possono nuocere. Beh, Carlo, mi pare una disamina bella severa, ma anche bella lucida la sua. Da Pisa ha chiamato Marco, buongiorno. Buongiorno, sì, siamo un po' pietosi con Beckham, però se Fanna avesse avuto il suo look sarebbe stata allora Maradona al confronto. Fanna ha detto. Sì. Perché come Fanna riusciva a saltare l'uomo meglio di Beckham e costava forse uguale. Leggermente, soltanto non aveva. No, io credo invece che il modo di crossare di Beckham sia una griff molto particolare, sia la sua unica vera grande peculiarità. Non mi pare di riconoscergli, ma non oggi, dai tempi in cui lo spacciavano per un campione emergente, ed è sempre stata, secondo me, un equivoco. Però comunque almeno quello gli va riconosciuto, cioè ha una battuta di destro molto ma molto interessante, molto ma molto efficace. Poi adesso è ovvio, adesso l'altra sera ha addirittura provato a tirare un po' in porta, a un certo punto si è notato e ci è arrivato a fatica, perché adesso gli manca anche un po' di potenza, insomma, no? Sì, però anche come conclusioni, poi se si va a vedere lo score di Beckham, anche come punizioni, cioè realizzative di gol, ne ha fatti pochissimi nella sua carriera. È un bel cross forse per andare poi per gli centravanti, per andare a impattare di testa, però ai fini poi anche realizzativi non è che abbia fatto, non è certo uno Zico, un Del Piero che quando va alla punizione nemmeno in quella particolarità lì, ecco, volevo dire Beckham forse l'unica, come dice lei, l'unica vera specialità sono quei bellissimi cross. Il cross a banana, no? Il cross curvato, il cross che gira, carico l'effetto, e insomma, nei suoi tempi migliori quella era una risorsa vera. Poi non so a cosa potrebbe servire oggi, visto che il Milan non ha colpitori di testa, tantomeno colpitori in corsa, se non qualche guizzo di Pato che arriva magari a velocità doppia, ma insomma non è semplicissimo da prendere. Ancora un ascoltatore, poi magari cominciamo a tirare le fila o magari a cambiare anche argomento. Antonio, provincia di Cosenza, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. No, ho sentito appunto le analisi fatte fino ad ora dagli altri ascoltatori, le ho trovate sempre tutte quante molto obiettive. Secondo me c'è da dire un'altra cosa: se andasse meritata la costanza e magari anche diciamo la buona volontà di un calciatore, forse dovrebbe prendere un bel voto. Però onestamente, considerando che in Serie B si trovano tanti giocatori che sulla fascia giocano sicuramente molto molto meglio e riescono ad affrontare una partita in maniera molto più vivace, forse ecco, bisognerebbe dire al Milan di cercare altrove le soluzioni per i propri problemi. Ma no, Antonio, non è tanto. No, io sono completamente d'accordo con lei e la sua disamina dal mio punto di vista è perfetta. La conclusione no, perché insomma il Milan ha tutto il diritto di come chiunque altro, di crearsi una squadra di stelle anziché di ragazzi, di puntare sull'usato sicuro anziché sui giovani. Quello che ero curioso di scoprire dai vostri commenti era questo. Io ho avuto una sensazione molto netta che mi ha abbastanza sbalordito, e cioè la differenza che passa tra tra questa impossibilità di essere normale che riguarda Beckham fuori dal campo, cioè tra questa sua anomalia assoluta, no? per la dimensione del personaggio suo, della moglie, di tutto quello che gli hanno creato, tra questa anormalità, diciamo, fuori, e la normalità totale che ha in campo, la banalità persino, cioè il fatto che in campo non sia un giocatore che fa pandan, no? con quello col personaggio di fuori, ma sia uno che la scarica più vicino, se gli viene l'idea di tentare un dribbling, gli viene sangue dal naso, non esce dal compitino della routine, e allora così, questa era la curiosità principale, perché sinceramente resto convinto che se la prestazione di Beckham dell'altra sera fosse stata la prestazione di un rincalzo del Milan, di un debuttante dalla primavera, di un una volta il Milan ha avuto per un certo periodo Brocchi che giocava più o meno in quel ruolo. Secondo me, se Brocchi avesse fatto una partita come quella di Beckham l'altra sera, scaricando sempre la palla più vicino e cercare di limitarsi a fare il colpitiro, cioè gli piovevano dei 5 dei 4 che gli facevano passare la voglia. È una questione di parità di trattamento, però sempre a parer mio, ripeto. Antonio da Novara, buongiorno. Ciao Gigi, grazie per farmi intervenire. Ma guarda, avrei detto la stessa cosa che hai detto tu, sembra banale, però l'ho trovato anch'io. E aggiungerei anche un'altra cosa: mi è sembrato che quando si proponeva non gli passassero veramente convinti la palla, soprattutto nel primo tempo. Bravissimo. Ho visto Pirlo che si girava sempre dall'altra parte, ben avendo, ma penso, tutta la fascia libera, perché penso che anche la Roma non abbia avuto paura di portarsi, come diceva lei, c'era l'inglese, non mi ricordo il nome, della Roma, che girava tantissimo. Rise aveva tantissimo spazio su quella fascia Beckham, che però non l'hanno mai veramente servito bene. E vorrei aggiungere un'altra cosa, che a me ha fatto moltissimo piacere quello che ho letto stamattina sulla Gazzetta, un'intervista a Galeone che diceva, come si è detto anche in televisione venendo dalla partita dell'Inter, che se non fosse stato per gli altri allenatori a San Siro si sarebbe veramente annoiato a vedere le partite dell'Inter. E secondo me è tutto da dire su questo Special One. Galeone... Sì, Galeone domani o dopo sarà qua a farci compagnia, a raccontare non tanto quello, magari anche quello, ma a raccontare tre belle storie di tre personaggi che lui si è cresciuto, si è covato, allevato e cresciuto da secondi, cioè da suoi vice, o dopo essere stati giocatori suoi. Sono Allegri, Gasperini e Giampaolo, e sono tre dei migliori allenatori di oggi. Dato che il vecchio Gale di questo va particolarmente fiero, l'ha raccontato splendidamente oggi al Corriere dello Sport. Domani compatibilmente con i suoi impegni, ma direi domani, che croce, glielo facciamo raccontare in diretta qui. Torniamo in onda con l'appuntamento fisso di questo momento del programma, e cioè il ripasso di storia affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 13 gennaio 1974. Scatta da Buenos Aires il mondiale di Formula 1 e la Ferrari si presenta al via con una nuova coppia di piloti destinati a rimanere nella storia del team di Maranello. Sono lo svizzero Clay Regazzoni, con alle spalle già un'esperienza in Ferrari, e l'austriaco Niki Lauda. Nel corso della stagione, il giovane Lauda si farà notare conquistando 9 pole, ma sarà Regazzoni a lottare per il titolo. Alla fine si dovrà però accontentare del secondo posto, alle spalle di Emerson Fittipaldi. Al brasiliano della McLaren, per trionfare sarà sufficiente conquistare 3 Gran Premi su 15. La mia opinione, scrive Jacopo da Vicenza, è che sia meglio un Beckham gratis che un Quaresma a 30 milioni. Sottoscrivo questa opinione di Jacopo, sicuramente a due mani, anche per un'altra ragione, perché Beckham pare che nel giro di 2 mesi si tocca dai piedi, invece Quaresma ho l'impressione che per quella modica cifra ce lo dovranno spupazzare un pochino di più con la trivela al seguito. Giacinto ha chiamato da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno. Io volevo fare un appello, essendo milanista, a dottor Galliani e al mister Ancelotti. Sto vedendo su Sky delle lezioni di calcio date da un giocatore francese che non viene più rammentato in Italia, ed è un certo Gourcuff. Un certo Gourcuff, che non importava essere dei professori a vedere, per capire che questo ragazzo veramente sa giocare a calcio. Cosa ne pensa lei? Giacinto, penso che lei abbia acceso la radio un pochino tardi, oggi non gliene faccio una colpa, ma non possiamo ricominciare a menarla con Gourcuff, perché siamo andati avanti 10 minuti e un quarto d'ora all'inizio a ricordare, a segnalare le sue attuali prodezze, a ricordare che l'Equipe gli ha appena dato una copertina in cui lo incorona erede di Zidane, con un po' di fretta, ma insomma con qualche ragione, eccetera eccetera. Dalla provincia di Milano, Gigi, buongiorno. Sì, buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione, volevo soltanto segnalare due aspetti tecnici sui due gol, uno del il secondo gol di Pato che mi ricordava vagamente il gol di Ibrahimovic fatto sempre contro la Roma, all'epoca c'era il povero Kufur che cercava di fare quello che poteva, questa volta c'era un certo Nexes contro Pato che in velocità con la palla credo che sia uno dei più forti dopo Kakà sul panorama calcistico. L'altro è il gol che ha fatto fare Crespo a Ibrahimovic, lo stesso movimento che ha fatto credo l'anno scorso all'Olimpico o contro la Lazio contro la Roma, diciamo che per quel poco che gioca Crespo quello era un movimento secondo me più che prevedibile, purtroppo per la difesa del Cagliari c'è stato poco da fare, ma con tutto rispetto per la squadra, ecco. Quindi volevo soltanto segnalare queste due. Grazie, grazie. Andiamo in provincia di La Spezia da Domenico, buongiorno. Sì, quindi scusate se intanto buon anno a tutti quanti. Sì. Allora, se esco fuori dal seminato, perché io francamente volevo capire qualcosa in più da altre situazioni, tipo il fischio anticipato di Celi, a che cosa può portare questo arbitro? Cioè, nel senso, avrà delle sanzioni, verrà come Cesare all'epoca dall'UEFA praticamente escluso da ogni geografia arbitrale, insomma. Ma e poi un'altra cosa, se era possibile, per quanto riguarda Beckham e compagni, no? Io sono sempre dell'idea che c'è gente che nasce con la camicia, gente no, lui è nato con la camicia e basta, ha detto bene lei, sa fare solo i cross, ma sa fare anche fan all'epoca, ma insomma non mi pare che sia entrato nella storia di qualcosa. No, sono in tanti che sanno crossare, perché non anche Molinaro è uno che crossa bene oggi, anche le ceglie, insomma, lasciamo stare l'elenco di chi crossa bene. Io credo che adesso non bisogna poi esagerare, nel senso che Beckham è sempre stato un giocatore di ottima qualità e di buona personalità. Non è mai stato, secondo me, il campione che ci hanno voluto far credere, ma questo negli anni d'oro. Adesso che non sia più un campione adesso mi sembra evidente da anni, non mica da quest'anno. Poi quando uno ha qualità, insomma, possono sempre risaltare fuori anche in tempi magari non più perfettamente idonei, magari teoricamente. Però diciamo che più il tempo passa, per l'appunto, e più è abbastanza improbabile che succeda. Mi piacerebbe farvi ascoltare, prima di concludere, senza togliere spazio, visto che siete ancora così numerosi per intervenire, farvi ascoltare la doppia opinione di Mourinho e di Moratti sul conto di Balotelli e su questo caso che indubbiamente sta ulteriormente complicando un momento già non semplicissimo dell'Inter. Quando lui capisce che va a rimanere qua, in questo momento non c'è un'altra alternativa che non concentrarsi nel suo lavoro con l'Inter, E chissà in questo momento il suo atteggiamento cambia e chissà in questo momento lui ritorna in squadra, ma in questo momento non mi sembra in condizione per giocare. Balotelli fa parte integrante della squadra, è un giocatore su cui puntiamo e cui io personalmente ho una grande fiducia, e così anche Mourinho, quindi siamo noi a decidere il fatto che per noi sia incedibile. Sono comunque punti di vista abbastanza diversi e infatti mi pare che anche questi e non credo faccia parte di una strategia comune in cui il presidente deve essere l'uomo della carota e l'allenatore è quello del bastone. Non è detto che sia poi così concordata. Gennaro, chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Ehi. È un grande onore veramente parlare con lei. Sapevo che cominciava, l'ho sentito subito. Saltando a pie pari questa fase? Mi senta? Certo, benissimo. Mi sente? No, è un grande onore veramente. Sì, sì, la ringrazio, però non... L'ascolto da tanti anni. La seguo da tantissimo e mi fa piacere perché veramente è uno dei pochi che veramente riesce a capire di calcio. Ha capito che fastidio hanno tutti gli altri all'ascolto a sentire nel frattempo queste cose? È una mia opinione, la devo dire. Volevo solo rispondere per quanto riguarda il Milan che si stava parlando, che attualmente mi sta dando solo un'impressione di essere una grossa azienda di queste stelle. Mi dispiace per i tifosi milanisti che insomma all'inizio del campionato gli è stato promesso uno scudetto, quasi che ce l'avevano sicuro, mentre invece poi con il tempo man mano si stanno piegando su queste grandi stelle per vendere solo una questione di marketing. Però purtroppo, come si dice, non si possono vincere le guerre senza perdere battaglie. Purtroppo la battaglia dello scudetto credo che è persa per il Milan se vuole puntare su queste cose qua, perché questo è solo il mio parere, poi l'ascolto per radio. Alla fine una sola persona per me attualmente sfigura nel Milan, che è il povero Ancelotti. Ci mettere Mourinho, così veramente sarebbe un'azienda al completo. Grazie, grazie Gennaro. Oggi era un giorno, un anniversario, 25 anni dalla scomparsa di Fulvio Bernardini. Io non so quanti appassionati di calcio attuali possano ricordare Bernardini, perché insomma è morto tra l'altro non giovanissimo, dalla bellezza di 25 anni, ma certo è stato un personaggio di grande levatura, è stato un grande allenatore, un grande insegnante di calcio per generazioni, ma prima era stato soprattutto un grande calciatore. Stiamo però parlando degli anni 20 e degli anni 30 e quindi che ci siano ricordi diretti oggi è impossibile. È stato comunque uno dei principali interpreti di un ruolo, quello del centromediano metodista, che entro certi limiti sopravvive ancora nel calcio di oggi, che allora veniva interpretato tutta in altra maniera, con molto meno dinamismo, ma che vedeva in Fulvio Bernardini veramente un professore. Sentiamo ancora Marzio, ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Senta una cosa solo su Beckham. Ma secondo me vado controcorrente, ha giocato benissimo e vi spiego anche perché. Da un uomo che ormai tutto quello che tocca diventa oro, è un businessman al 100%, in una squadra di marketing al 100%, riuscire ancora a fare il calciatore e buttare la palla un po' a destra e un po' a sinistra con quattro tocchetti mi sembra veramente da grande. E le parla purtroppo un milanista di quelli molto molto profondi. Sì, la mia delusione è enorme. Lo si sentiva, guardi, proprio lo si spugnava. Allora, così, proprio per consolarla, non so se è il caso, lei è certamente un intenditore, quindi non posso pensare che non conosca la celeberrima definizione di George Best che diede di Beckham, ma non del Beckham di oggi, che povero Best è morto da 3 anni e quindi non potrebbe darla, ma insomma la diede quando Beckham era un ascendente, un preteso campione, non un declinante come oggi. George Best, secondo me anche un po' esagerando, disse: beh, insomma, non usa il sinistro, non sa dribblare, non colpisce di testa, non contrasta e segna poco, ma a parte questo mi sembra un buon giocatore. C'era Flavio Suardi in redazione, c'era Filippo Aureggi in regia. Appuntamento come sempre a domani, grazie.